lascia le pietre. Sette ragazzi felici fan sosta nei campeggi estivi in festa. All'improvviso il cielo si squarcia con luce irreale, vien giù. Neve, tempeste, una strana gran torcia che catapulta nel blu. Fionda i nostri eroi nell'isola di Fae. Dove Digimon, Digimon, strani corpi astrali digitali. Digimon, Digimon, sono angeli custodi, spiriti virtuali. Digimon, Digimon, sono sette le saette lampo che proteggono chi poco attento scende a Thailand Fae. Dal feroce mosco alato Guadamai. Quel muro, lo spazio si è aperto d'incanto. Si fanno coraggio i ragazzi un po' insonni, ma l'isola è piena di inganni. Giungono al mare stremati, affamati, un breve riposo si fa. All'improvviso con sibili acuti dall'acqua una mostruosità. Non regna mai la pace sull'isola di Fae. Dove Digimon, Digimon, sempre coraggiosi, sempre attenti. Digimon, Digimon, dell'isola di mostri sono i vigilanti. Digimon, Digimon, sono sette le saette lampo che proteggono chi poco attento scende a Thailand Fae. Feroce mosco alato Guagaman. Digimon, Digimon, strani corpi astrali digitali. Digimon, Digimon, sono angeli custodi, spiriti virtuali. Digimon, Digimon, sono sette le saette lampo